gli arresti di decine di pedofili, colpevoli di aver immesso o scambiato materiale pedopornografico dalla rete internet, si riscontrano quasi ogni giorno e rappresentano solo la punta dell'iceberg di un fenomeno trasversale in ogni strato sociale, il pansessualismo, ovvero quella concezione patologica che pone l'istinto sessuale alla base di ogni attività psichica, deformandone l'oggettiva percezione della realtà. L'uomo moderno, saturo dei beni materiali, evidentemente insufficienti per sedare noie ed angosce esistenziali, si è lasciato sedurre dalla mai sopita brama del piacere sessuale, pagandone alla fine il prezzo, diventando cioè dipendente da esso. La virulenza del pansessualismo permea ogni aspetto e costume dell'intera società. Moltiplicazione di chat e linee telefoniche erotiche, riservate a vecchi e nuovi generi sessuali. Proliferazione di club privé, dove gli amanti del prurito voyeuristico e dello scambio di coppia consumano le proprie inconfessabili passioni. Strade assediate ogni ora del giorno da disperati alla ricerca di donne da usare. Turismo sessuale, camuffato da viaggi esotici. Comunicazione verbale condita da sperticato uso di intercalari a sfondo sessuale. Ragazze giovanissime con ombelichi e panci in bella mostra, talvolta accompagnate da esemplari madri in piena concorrenza alle realtà, tutte immancabilmente accomunate da scene di sesso e di nudo. Queste sono frutto delle emancipazioni liberal sessuali del passato e del presente. Bisogna ammettere che la libertà sessuale, così come intesa sino ad oggi, vale a dire sganciata da qualsiasi progettualità e responsabilità invece di liberare l'uomo, lo ha ridotto a uno stato di deprimente schiavitù. Non stupisce quindi che 10 milioni di bambini risultino vittime dell'industria del sesso. Poiché un terzo della popolazione mondiale ha meno di 15 anni, cioè quasi 2 miliardi, è evidente che i bambini, deboli e indifesi, sono i più esposti a questa corruzione sessuale. Nella sola Romania, più di 5.000 bambini vivono e si prostituiscono in strada, facendo della Romania la nuova meta del turismo sessuale mondiale. L'Italia è il secondo paese al mondo per esportazione di turisti sessuali, e il primo in Europa per abusi infantili. Se il sesso viaggia a ruota libera, non stupisce che vi siano 52 milioni di aborti all'anno, il che significa che vengono uccisi più di 142.000 bebè al giorno. Solo negli Stati Uniti, in un paese che passa come nazione cristiana, vi sono 1.500.000 aborti ogni anno. Questi non sono solo dati anagrafici che possiamo aggiungere ad altri, ma sono realtà che lacerano l'anima, che rivelano quanto sia arrivato in basso il valore morale dell'umanità. Scriveva un lettore ad una rivista: «Secondo me non ci è niente di scandaloso nell'utilizzare immagini di nudo femminile per stuzzicare l'immaginazione del pubblico e invogliarlo a comprare. Coloro che si scagliano contro tale pratica gridano allo scandalo semplicemente per invidia, perché non possono raggiungere l'oggetto in questione, e quindi si limitano a deplorare ciò che non possono ma che vorrebbero avere. Per quello che mi riguarda, io non trovo nulla di brutto in un'immagine di una donna più nuda possibile, e ogni volta che fortunatamente mi capita l'occasione di avere un rapporto sessuale non mi fa del tutto schifo come alcuni vogliono farmi credere». Questo lettore rappresenta l'uomo medio. Proprio perché, in merito alla sessualità, ci è molta confusione, e nonostante il mondo vanti una grande informazione al riguardo, continua ad aleggiare un'ancestrale, mitica, grande ignoranza che ne distorce l'immagine. Quanto allo scopo, la funzione e l'azione benefica, è bene fare ulteriori riflessioni. Innanzitutto, la parola di Dio non ha mai detto che la sessualità distorta, ossia il peccato, sia una cosa brutta. La parola di Dio ha sempre messo in evidenza che il peccato ha il suo aspetto piacevole e attraente, diversamente non sarebbe così ricercato. L'esempio di Mosè in Ebrei 11, 24-26 è rivelatore. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Mosè visse nell'agiatezza, nella ricchezza e tra gli onori. La sua morale era certamente condizionata dalla corte del faraone, dove molto probabilmente ogni cosa era lecita. Non sappiamo nulla dei suoi rapporti con l'altro sesso, ma la scrittura ci dice che egli viveva nei piaceri del peccato. Il peccato si esprime sotto molteplici forme, ma quello che a noi interessa è notare che la scrittura, sempre realista, lo presenta piacevole, non detestabile. Quando diciamo ad un bambino che rubare la cioccolata non è giusto, se lo guardate bene in faccia, questo vi guarda con due occhi stupiti, pieni di interrogativi. Come? Rubare la cioccolata non è giusto? Ma se è così buona? Trasportando questo aspetto alla sessualità, è ancora più evidente. Dire a due giovani che fare sesso non è giusto ha lo stesso effetto che dirgli che non è giusto godere quando mangiano un gelato. Quando una cosa piace, come può essere ingiusta? E, forse, il piacere ingiusto? A volte sì. Questa, tanto incredibile quanto reale ingiustizia, all'interno di un così grande piacere, però, spesso è lo scorrere del tempo, la vita, a rivelarcelo, e non certo la nostra morale. È per questo che si naviga in internet, ecco perché. Occorrono le regole, perché sono quelle che rendono leciti i nostri piaceri. C è una vistosa incoerenza dell'uomo che ha le sue radici nella notte dei tempi, il suo comportamento nel campo spirituale o morale e nella vita di ogni giorno. Nessun genitore darebbe in mano ad un bambino un oggetto pericoloso per poi fargli una grande predica insegnandogli come lo deve usare, come non lo porterebbe su di un precipizio dicendogli come sia fatale buttarsi giù, come sia un atto da non farsi. Eppure molti genitori danno in pasto ai loro figli letteratura pornografica, li lasciano giocare con il sesso sia in internet che con i videogames, non li riprendono in questioni morali riguardanti il sesso e poi si stupiscono se le loro figlie rimangono incinte prima di raggiungere l'età da marito e, ancora di più, pretendono che abbiano una spontanea morale ineccepibile. Sul lavoro avevo un capo officina che si vantava di essere un seduttore di donne. Fumava incessantemente, bestemmiava a più non posso, era arrogante e presuntuoso. Un giorno, mentre mi parlava con orgoglio della figlia minorenne così casta e ubbidiente come farebbe del resto ogni genitore, gli chiesi su quali basi pretendeva da lei purità sessuale e una morale evangelica. Mi guardò sorpreso, ma comprese. Una società che non mette regole morali secondo la parola di Dio è come quel genitore che non insegna al bambino a lavarsi i denti e la faccia. Nessun bambino si laverebbe di sua spontanea volontà come nessun giovane, e meno giovane per istinto naturale, è inclinato al bene. Per cui, vietare di navigare in internet a scopo di ricercare siti erotici, proibire contatti telefonici con voci sconosciute di persone molto disinibite, impiegate presso società che mercanteggiano piacere sessuale, non solo è giusto ma è doveroso, indispensabile. In fondo questa vistosa incoerenza non mi stupisce più di tanto perché dietro alla sessualità distorta, alla pornografia, vi è il dio denaro, la necessità di fare pubblicità allo scopo di guadagnare ingenti somme, scopo per il quale si bandisce qualsiasi tipo di scrupoli. In un mondo completamente erotizzato, schiavo del pansessualismo, abbiamo perso la consapevolezza che la parola pubblicità aveva, alle sue origini, uno stretto significato erotico. Si riferiva infatti alla donna pubblica, alla prostituta come merce. Oggi è l'universo delle merci a offrirsi come universo della prostituzione e, nell'abbondanza delle merci divenuti simili a lei, la prostituta ha perso il fascino di cui ancora godeva anni fa, diventando un personaggio squallido che deve inseguire il luccichio delle merci per destare una qualche ammirazione. Perché tanta pubblicità con immagini erotiche? Perché chi vuole fare presa sulla debolezza morale del prossimo deve influire sul cervello, perché esso è l'organo sessuale più importante, poiché ogni cosa, sia il bene che il male, è controllata dal cervello. Offrire input sessuali tramite internet, televisione, videogames significa, né più né meno, che tentare nella stessa maniera Adamo ed Eva nel serpino in cui il serpente tentò giardino dell'Eden. Tentazione questa, difficile da resistere, anche per un figlio di Dio. Ma Dio sa trarre i pii dalle tentazioni. 2 Pietro 2, 9. Ho sempre letto molto, e non solo ciò che riguarda la mia fede. Ho comprato libri di ogni specie, ma solo un genere di libri non ho mai comprato. Quelli pornografici. Eppure vi è stato un periodo che la voglia di comprarne uno mi era insopportabile. Stanco di questa tensione, mi rivolsi a Dio facendo un patto. Mio Dio, compro un libro pornografico solo una volta, e poi ti prometto che non ne comprerò mai più. Mai più. Stabilito il patto, mentre tornavo a casa in treno da una certa località, andai dal giornalaio. Guardai le riviste e vidi un libro con la copertina di una donna abbastanza spogliata, lo comprai e me lo misi in tasca. Aspettai con calma di salire sul treno per iniziarlo a leggere perché poco dopo avrei realizzato, finalmente, un mio fastidioso desiderio. Arrivò il treno, presi posto in un luogo solitario, presi fuori il libro, guardai tutto soddisfatto la copertina, lo aprii e dentro era tutto scritto. Nessuna figura erotica. Era un romanzo? Non credo che si possa capire ciò che ho provato. Ma, dopo un breve smarrimento e delusione, dentro di me è sorta una gioia inesprimibile. Perché il mio desiderio di comprare un libro pornografico era stato soddisfatto, il patto lo avevo fatto. Per cui, se, causa la mia ignoranza in materia, non ho ottenuto esattamente ciò che volevo, la colpa non era di Dio, ma mia. Così, quel giorno, il mio prurito è stato tolto e io, per mantenere il patto con il mio Dio, non ho mai più comprato un libro che abbia figure erotiche. C. È solo un modo per evitare di essere schiavi della sessualità come, d'altro canto, di qualsiasi altra cosa che rechi una idolatrica dipendenza per il piacere che procura. Stabilire, con un atto di volontà, un patto con Dio affermando davanti a Lui che non si vuole essere coinvolti, ammettendo anche quanto se ne provi piacere, poiché una tale ammissione sincera davanti a Dio unita alla volontà di deporre la propria... Dio non considera i nostri sentimenti, che sono mutevoli e ingannatori, ma un patto con Lui, Dio lo ritiene sacro. Perché, proprio per un patto, Cristo è morto in croce per salvare chiunque crede in Lui. E di questo patto, oltre a quello riguardo alla sessualità, io me ne sono appropriato. Dicembre 2004. Ellero.